Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ci portò di sopra e di fronte ad una cassiera che ci guardava con compassione ci chiese i nomi dei nostri genitori, gli indirizzi e i numeri di telefono. Mentimmo spudoratamente e certo lui lo sapeva, ma il suo intento, perfettamente riuscito, era quello di spaventarci. Ciao, sono Luca, ho 45 anni, faccio il medico del lavoro, abito a Lomazzo in provincia di Como, dopo 38 anni passati a Milano. Al rientro dalle vacanze con la mia famiglia mi accorsi di avere dimenticato le scarpe sotto il letto della casa che la famiglia prendeva in affitto per trascorrere il Ferragosto. Nike argento, bellissime. Tornato a Roma decisi che il giorno dopo sarei tornato a prenderle e così feci. L'indomani, avevo 16 anni, presi il pullman verso Latina. Arrivai alla casa, che ovviamente era chiusa, e scavalcai. Avevo imparato a memoria tutti i vizi delle serrande e, una volta saltato il cancello, mi avviai verso la serranda che sapevo essere rotta e la feci alzare. Entrai, andai verso il letto dove avevo dormito, ma non trovai le scarpe. Uscendo sconsolato per la fatica inutile e la consapevolezza che avevo perso le mie scarpe preferite, chiusi tutto con cura e scavalcai nuovamente il cancello, questa volta per andarmene. Tempo 3 minuti, ancora dovevo capire che ero uscito, che mi trovai davanti 4 pattuglie della polizia che mi esortavano a tenere le mani bene in vista. Provai a prendere il telefono per chiamare mia madre, ma me lo impedirono, puntandomi le loro pistole. Perché oggi siamo tutti persone adulte, più o meno, no? Abbiamo la testa sul collo, insomma, è difficile che facciamo qualcosa che poi può causarci, insomma, che può essere considerato una ragazzata, ma che può invece causare delle conseguenze gravi. Perché tutti, insomma, abbiamo una famiglia, o se non ce l'abbiamo abbiamo un lavoro, o se non ce l'abbiamo abbiamo comunque una certa adultitudine, insomma. Sappiamo cosa facciamo, conosciamo le conseguenze delle nostre reazioni. Ma da ragazzi è diverso. Da ragazzi capita che fai una cosa ed è proprio una ragazzata. Infatti si chiamano ragazzata. E da lì, in realtà, in alcuni casi può succedere davvero qualcosa di grave. 349-238-6666, oppure voi siete qui, Radio 24 su Facebook, oppure anche su Twitter. Buongiorno a tutti, sono le 16:10 minuti, questo è un bel venerdì, direi, un bel venerdì di 11 ottobre, dopo la tempesta di ieri. Oggi Milano si è svegliata fresca e riconciliata con la natura, e noi siamo qui per raccontarvi, come sempre facciamo, una storia. Una storia semplice, una storia unica, la storia di una persona che ha voglia di condividere un pezzo della sua vita e che racconti qualcosa di lui. Luca oggi ci racconta questa storia qua, la storia di come una ragazzata, proprio una stupidata, rischiava di compromettere probabilmente parte della sua vita. Se vi ricordate di una cosa simile, se vi ricordate di aver fatto una ragazzata, usiamo proprio questo termine, che poteva avere delle conseguenze peggiori di quanto sia finita, 349-238-6666. Andiamo con ordine, andiamo con la storia di Luca. La giornata era come tante, un pomeriggio autunnale di 30 anni fa. Io e Paolo, Paolo è un nome di fantasia, perché non ho più incontrato quel vecchio compagno delle medie e non so se avrebbe piacere a riconoscersi in questa storia. Tant'è, io e Paolo eravamo alla ricerca di un regalo per il compleanno di un nostro compagno delle medie. La fantasia era tanta, i soldi pochi. Stavamo girando, ormai senza una meta precisa, nei dintorni di via Paolo Sarpi, la Chinatown milanese, quando incontrammo altri 2 ragazzi che frequentavano la nostra scuola, che uscivano dalla standa. Ci salutammo, loro ci mostrarono con orgoglio un paio di piccoli giocattoli che avevano appena rubato dentro al supermercato. Dissero che era stato facile, bastava un po' di rapidità e il gioco era fatto. Allora eravamo agli inizi degli anni 80, ancora non esistevano sofisticati sistemi di antitaccheggio che ci sono oggi. Quando gli altri 2 ragazzi se ne furono andati, io e Paolo rimanemmo lì a fissarci. E in pochi secondi una pessima idea si fece strada nei nostri giovani cervelli. Ci mancavano i soldi e poi, avendo questa idea di fare qualcosa, diciamo, di pericoloso, non so, il brivido del rischio c'era venuto non so cosa, e piccole cose sempre legate comunque al mondo dei giocattoli. Di solito Bossa andava, chiaramente andavamo a giocare al Parco Sempione, andavamo o all'oratorio. Io, spaventato ma anche eccitato da quel perverso gusto del proibito che si ha da ragazzini e che qualcuno si trascina anche nell'età adulta, rimasi qualche minuto silenzioso. Poi acconsentì a quella scemenza. Entrammo, raggiungemmo il reparto giocattoli e Paolo cominciò a rigirarsi tra le mani un pupazzetto. Accortosi che non c'era anima viva intorno, decise anche di esagerare e infilò sotto il giubbotto due pupazzetti anziché uno. Eravamo sovraccitati, ci sembrava di essere due rapinatori stile Diabolik. Ci muovemmo rapidamente, ma mentre scendevamo la scala che portava al piano inferiore, trovammo in fondo alla rampa, vicino all'uscita, uno dei commessi. L'uomo si piantò in mezzo e, posando una mano sul petto di Paolo sformato dai pupazzetti, disse: «Cos'hai lì sotto? Fammi vedere». Paolo, rosso di vergogna come ero anch'io in quel frangente, aprì il giubbotto e mostrò i due giocattoli. «Mostrami lo scontrino», disse piantando dinanzi a noi a gambe larghe e braccia conserte come uno sceriffo. Paolo provò a mentire: «Non abbiamo gli scontrini, stavamo cercando mia mamma per pagarli». «E dov'è tua mamma?» domandò il commesso con un mezzo ghigno. Rimanemmo entrambi in silenzio. Poi parlò lui: «Forza, saliamo, voi volevate rubare». Ci portò di sopra, di fronte a una cassiera che ci guardava con compassione e ci chiese i nomi dei genitori, gli indirizzi e i numeri di telefono. Mentimmo spudoratamente, certo lui lo sapeva, ma il suo intento perfettamente riuscito era quello di spaventarci. Ci aveva chiesto i nomi dei genitori, ci aveva chiesto l'indirizzo dove abitavamo e il numero di telefono di casa. Ovviamente abbiamo mentito spudoratamente, forse avevamo un po' capito che in realtà non avrebbero fatto niente di, cioè, tipo chiamare i carabinieri o la polizia. Lasciamo giù un pupazzetto e a stento riuscimmo a comprare l'altro, grazie alla cassiera che ci abbuonò 150 lire. Poi tornammo a casa di Paolo. Seduti sul letto nella sua cameretta, iniziammo a rimuginare su quello che era successo. Se i nostri padri ci avessero scoperto, oltre alla vergogna avremmo avuto anche la nostra buona dose di scapaccioni. Giurammo che da quel giorno non avremmo più rubato nemmeno un foglio di carta e che se ci fosse capitato avremmo aiutato i poveri per quanto ci fosse stato possibile. Poco tempo dopo venimmo a sapere che i due amici che avevamo incontrato fuori dalla standa ci avevano bellamente presi in giro quella roba, l'avevano comprata. Oggi mi rendo conto che quell'anonimo commesso ci ha dato una delle più grandi lezioni che potessimo ricevere. Sfruttando il nostro evidente imbarazzo di ladri in erba, ci ha impedito di pensare che il furto potesse essere una scappatoia facile nelle difficoltà della vita. Mi auguro che Paolo, o come si chiama, da qualche parte, pensi la stessa cosa. Your fingers just can't hold on to what I've become. And as I look on what is left of my reflection, I ain't sorry, I can't worry about what I've gone and left behind. Non siamo qui a fare baldoria, mangiare, bere alla goccia o ubriacarci. Questo è solo il modus operandi. Siamo qui per legarci l'un l'altro per la vita. E questo vale solo se si è fatto qualcosa di veramente terribile assieme. Sai che il tuo compagno ti aiuterà quando sarai più vecchio, perché sai un sacco di robaccia su di lui. C'era della coca e un bordello. Tutti hanno umiliato un uomo. C'era una prostituta sotto il tavolo. Si è legati, sì, ma dalla paura. La chiamiamo fratellanza, affetto, ma è un romantico controsenso. È vergogna. Questa che vi ho letto è una battuta di un testo che si chiama Posh. L'autrice invece si chiama Laura Wade ed è uno degli spettacoli di maggior successo che ci sia stato al Royal Court Theatre di Londra nel 2010. La storia è abbastanza semplice, racconta di 10 studenti di Oxford che affittano un pub di campagna per una notte. Durante la serata ognuno fa di tutto per mettersi in mostra. Uno si presenta indossando un'armatura, come il patrono dell'università. Uno cucina l'arrosto dei 10 uccelli, uno dentro l'altro, dal colibrì al cigno. Uno regala a tutti un biglietto aereo per festeggiare l'alba a Reykjavik. Uno offre una prostituta sotto il tavolo per la serata a tutti quanti. E altre cose del genere. Solo che poi l'armatura è troppo pesante, gli uccelli fanno schifo, l'alba a Reykjavik va sprecata e la prostituta gli dà buca. La serata quindi degenera. Quando tentano di molestare la cameriera, lei riesce a sfuggire, ma quando il padrone va a chiedere spiegazioni, i 10, carichi di alcol e dell'ennesima frustrazione, lo uccidono. E nell'ultima scena si pronuncia esattamente quella battuta lì. Quando l'ho letto mi sembrava scritto bene, anche molto bene, ma non pensavo che me lo sarei portato dietro. Quella frase però nell'ultima scena mi è rimasta addosso, forse perché sono convinto che la vergogna ti segni più della gioia. E che spesso i legami d'amicizia si fondano su una forma di ricatto, segreto e reciproco. Luca non se la sente, a distanza di tanti anni, nemmeno di confessare il nome del suo amico. Questo episodio però li ha legati per la vita, che lo volessero oppure no. È andata così. Magari non erano nemmeno così amici, magari erano destinati a dimenticarsi l'uno dell'altro nel giro di pochi anni. Io non ricordo tutti i miei compagni delle medie. Me ne ricordo però uno. Mi ricordo bene di Marco Saviolo. Marco Saviolo non è mai stato un mio amico, però abbiamo fatto le medie insieme e capitava di giocare con lui al pomeriggio. Io oggi non mi ricorderei di lui se non fosse per quello che è successo un giorno. Marco Saviolo viveva con la sua famiglia in una cascina appena fuori dal paese. Il papà di Marco aveva un'arma in casa. Chi vive in campagna in una cascina fuori dal paese spesso ha un'arma in casa. Alcuni hanno una scalciacani, altri il fucile. Il padre di Marco aveva una carabina Flobert. La carabina Flobert è un'arma simile a un fucile, ma più corta e meno potente. Però è un'arma. Quel giorno siamo in cascina da soli. Mi porta nella sua camera e poi nella camera dei suoi. Si infila dietro l'armadio ed esce con la carabina. È bellissima, o almeno a me, da ragazzino, sembra bellissima. Il ferro è freddo, color piombo. Il legno del calcio è chiaro. Si vede che non è mai stata usata. L'ingranaggio dove si mette il proiettile è durissimo. Sono sorpreso da quanto pesi. Marco apre un cassetto e tira fuori i pallini. Poi si gira verso di me e mi chiede: «La proviamo?» Per scendere in cortile c'erano pochi gradini. Ci sediamo sull'ultimo per appoggiare il calcio della carabina sul gradino sopra. Io la imbraccio e carico il colpo. Marco mi sta davanti, perfettamente sotto tiro. «Cos'è questa?» gli chiedo, indicandogli una linguetta d'acciaio. E lui mi dice: «La sicura». E mi fa vedere che, se quella levetta è sollevata, il grilletto non fa click. Per farlo si sposta appena. «Prova, non succede niente, dai, prova». Premo il grilletto. Ed è un attimo. È un colpo fortissimo. E ho sparato io. Il proiettile ha sfiorato la pancia di Marco e ha trapassato dall'altra parte del cortile, a una trentina di metri da noi, un asse di legno. Nell'aria c'è odore di polvere da sparo. Pochi secondi prima della detonazione Marco Saviolo era esattamente davanti alla canna. Senza dire nemmeno una parola, rientriamo in casa. Marco rimette il Flobert dietro l'armadio, rimette i proiettili nel cassetto. Poi io mi prendo la bicicletta e me ne vengo via. Nessuno ci ha mai scoperti. Da quel giorno non ho mai più preso in mano un'arma e da quel giorno io e Marco Saviolo siamo legati per sempre, legati dal terrore di quello che sarebbe potuto accadere. Born inside the gates of the family, hardened by a Roman machinery, cast among the building sites, the coiling wires, the shots collected, called out in the wake of a letter held inside the family. Gathering mirrored beams and dog-like stretch, the wandering association murmurs in the dark confessional, and rides along the road ephemeral as an animal life, rusting in the shade of the batteries hanging from. Pacing down the balance beam of half-remembered holidays. No rush and light, no sound of belonging, no joy in building love in the finishing. Chasing down an anodyne and half-reflected radiance to hide below the ancient barricade. In chambers like the rooms a swallow made. Per strada, Luca, ma non direi a Chinatown, è per strada, sembra in un rione che potrebbe essere di una città del centro Italia, potrebbe essere Siena, una contrada di Siena. C'è una luce estiva alle sue spalle, lui indossa una polo, ha i capelli un po' scarmigliati e ha una mano sulla pancia come a dire: Mazza, quanto ho mangiato oggi. Pronto, Luca? Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Cosa avevi mangiato quel giorno nella foto che ci hai mandato? Avevo mangiato tanto, quella col terra. Avevamo fatto un giro per ristoranti anche. Ok, quindi, sei, scusami, dove hai detto che sei? A Volterra? A Volterra. Ok, sì, quindi più o meno. Due anni fa a Volterra, sì. Invece, dov'è che abiti adesso, Luca? No, mi sa che c'è un problema col telefono. Se ti muovi, stai fermo. Se sei fermo, muoviti. Allora, che non so se ha senso la cosa che ho detto, però. Okay. Allora, riproviamo da capo, Luca. Okay. Dove abiti adesso e cosa fai? Abito a Lomazzo, provincia di Como. E sei lì perché? No, sono cavolano e poi è stata una scelta di vita, insomma. Ma perché ti sei sposato a Lomazzo o lavori a Lomazzo? No, mi ero già sposato prima, ma cercavamo casa a Milano, ma i prezzi erano i prezzi sono, ovviamente. E quindi lentamente vi siete allargati, avete allargato la cerchia. Andiamo oltre le mura, andiamo oltre la circonvallazione. Ma a sto punto proviamo ad andare a Lomazzo, che sicuramente costa di meno. Beh, ma quindi lavori a Milano, fai avanti e indietro da Lomazzo? Però sì, lavoro a Milano e quindi faccio un attendito, però quel mio lavoro è comunque un lavoro di spostamento, sono un medico del lavoro, quindi vado in giro per l'azienda. Quanto è grande Lomazzo? Scusami, è che mi piace tantissimo pronunciare il nome Lomazzo, credo di averlo fatto 10 volte e lo farò altre 10 da qui alla fine. Quanto è grande Lomazzo? Luca, niente. Questa lo richiamiamo se ce la facciamo. 349-238-6666. Tutti gli abitanti di Lomazzo, se sapete quanti abitanti ha Lomazzo, 349-238-6666. La stessa stupida idea che ha avuto Luca dice: mi costò diverse ore di prigione a Londra, scrive Alessandra. Avevo 13 anni, non potei mai più andare in vacanza da sola fino a 18 anni. Perché ovviamente immagino l'abbia confessato ai genitori. Da piccolo avevo una strana propensione per il fuoco. Ho cosparso il balcone di casa con la benzina e gli diedi fuoco. Poi tutto bene, Andrea, che probabilmente ha dei parenti a Lomazzo, secondo me. Non so perché, ma cospargere il balcone di benzina non è poco, però, è proprio riempirlo. Ma abbiamo ripristinato il collegamento da Lomazzo. Pronto, Luca? Eccomi. Ciao. Eccomi qua. Ma sei a Lomazzo o a Milano? No, adesso sono a Milano, sto lavorando, sì, una pausa sul lavoro. Dimmi che lavoro hai fatto un attimo prima di chiamarci e che lavoro farai dopo, se è lo stesso dimmi qual è. Allora, no, sono un medico, stavo facendo delle visite in un'azienda. Ok, perché il medico del lavoro viene chiamato dalle aziende per verificare lo stato dei propri dipendenti. Esatto, se le persone sono idonee o meno a fare certe mansioni. Perdonami, tu però non lavori per le aziende, lavori per la ASL, cioè no? No, lavoro no. Per un centro privato che Ok, va bene, perfetto. Servizi di sicurezza sul lavoro. Luca, scusami, perché purtroppo non abbiamo tanto tempo visto che è caduta la linea. Paolo. Okay. Luca. Paolo. Che fine ha fatto? Non lo sai. Non l'ho più ritrovato, anche cercando su Facebook e così non... Anche perché ti ricordi che Paolo non è il suo vero nome, vero? Nel senso che tu se lo cerchi come Paolo è un po' complicato. Okay. No, infatti. Non sappiamo. No, il nome me lo ricordo. Non sappiamo che fine abbia fatto su questo Paolo. Però non so che fine abbia fatto, esatto. E non hai mai più... Media... E non hai mai più rubato nulla di piccolo, di minuscolo, di insignificante? No, Luca. Nulla. Lì al mazzo. No, sai chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? L'ha fatto una volta, ma assolutamente in maniera involontaria, al mercatino di Piazzale d'Agosta. Sì. Mia figlia, che era molto piccola, avrà avuto un anno e mezzo, camminava appena, ce l'avevo per mano. E cosa ha preso? E ha preso una confezione di due batterie di pile. Ok, e a un certo punto te la sei trovata con queste pile in mano. No, esatto, dove l'hai presa? Che figura orribile che mi fai fare. Ormai e via. Eravamo già, e tutti a Lomazzo. Luca, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Per togliere un cartello di pericolo 30 km all'ora che era caduto dietro una curva, l'ho caricato in macchina per portarlo al cantiere. Mi hanno accusato i residenti di una casa vicina di voler rubare, hanno chiamato i carabinieri. Questi mi hanno creduto, perché chi è che ruba cartelli da 30 all'ora? Ma ho passato una brutta mezz'ora. Volevo chiudere parlando di una cosa che mi ha fatto notare Tiziano. È di ieri questa notizia, o di questi giorni? È di ieri. Si parla di competenza linguistica. Sapete, ogni tanto vengono fatti questi sondaggi, no? Visto che noi raccontiamo storie, ogni tanto ci diciamo, forse andiamo troppo veloce a raccontarle, o forse dovremmo spiegarle meglio, forse alcune sono un po' criptiche. Margherita Hina fa di sì con la testa, e mia nonna mi diceva sempre: vai piano, vai piano che non capisco quello che dici. Non credo faccia parte di questo studio, però qui Tiziano mi dice, cioè mi dà una fotografia che mi dice, solo il 3,3% degli italiani adulti raggiunge livelli di competenza linguistica 4 o 5, cioè i più alti, contro l'11,8% della media di tutti gli altri paesi partecipanti. Quindi c'è una differenza di tipo 7%. È uno studio, ah, è uno studio OXE, non è uno studio tipo della Danimarca, di quelle robe americane. Quindi non so esattamente se ho capito quello che ho letto e non so se avete capito quello che dico. Però, diciamo, l'importante forse è farci un pochettino più attenzione. Continuate a raccontare storie e scaricate il podcast della puntata di oggi e se non ce l'avete anche quelle di ieri. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Luca perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Roberta, sono di Torino, la storia di lunedì è la mia e parla dei vestiti del Cicciobello. Questa è la mia storia e io sono qui.